La zanzara con Alessio Maurizi. 18 e 8 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati anche questa sera. Staremo insieme fino alle 20.30, 824 0024 con Alessio Maurizi, in redazione Laura Marchesi e Marco Lombardo e in regia Roberto Scaltritti. Come avete sentito, la borsa è al lavoro, Borsa Italiana, per capire che cosa è successo, il perché di questa chiusura senza quotazione. E tra poco forse uscirà qualche notizia su questo. Intanto iniziamo, come ogni sera, 349-238-6666 per i vostri sms, la zanzara @radio24.it, cercateci anche su Facebook, la zanzara. Iniziamo con i titoli, Sky TG24. Crollano le borse europee, Piazza Affari a fondo, poi si blocca l'aggiornamento degli indici. È emergenza, subito le riforme, le parti sociali incalzano il governo. Per Berlusconi patto sulla crescita, ma niente allarmi, Tremonti, serve una riforma fiscale. Imprese e sindacati a colloquio anche con l'opposizione, da Bersani no a spallate al governo. E arriva l'allarme dalla BCE per Trichet, l'Italia deve tagliare la spesa pubblica. Ordigno al passaggio del blindato, in Afghanistan 4 soldati italiani feriti. Commozione nell'Odigiano per i funerali del ragazzo ucciso a Mykonos. George Clooney ha una nuova fiamma, si chiama Stacy ed è un'ex lottatrice. La mia fidanzata milanese non è donna di pretese, pensa sempre al cia-cia-cia. Non le importa niente dei milioni, vuole solo buone azioni della borsa di Milano. Breda, Eridania, Iri, Mediobanca. Questo curioso cia-cia-cia dedicato alla borsa per introdurre l'argomento è giallo attorno a questa chiusura senza quotazione della borsa italiana e, come dicevamo, tra poco forse ci sarà qualche notizia, probabilmente si tratta, come è stato anticipato, di un fatto tecnico, ma sapete che in questi giorni in cui non si parla d'altro, insomma, quantomeno viene da preoccuparsi, da stare alla finestra a vedere che cosa è successo a questo benedetto indice. Proprio nel giorno nel quale c'è stato l'atteso incontro tra il governo e le parti sociali sulle riforme da fare per risolvere questa crisi, e nonostante gli auspici delle parti sociali, Confindustria in prima linea insieme ai sindacati e altri anche, se ne riparlerà a settembre. Insomma, le misure concrete arriveranno a settembre. Il governo lavorerà probabilmente quest'estate, ad agosto, ma atti concreti ci saranno, nonostante gli auspici, ripeto, a settembre. E per Berlusconi il problema continuano a essere proprio le borse, che insomma non valutano il fatto che il nostro paese tutto sommato non va così male. E poi dice e ripete quello che aveva già detto altre volte: sono come un orologio rotto. Sentiamolo. I mercati agiscono per ragioni proprie, che sono distanti sia dalla realtà economica che dalla politica. E questo io lo so, sono figlio di un padre che aveva una grande esperienza di borsa, mi diceva della filosofia e delle ragioni che muovono le borse, che sono normalmente in contrasto con quelle che muovono l'economia. Mi ricordo una frase che diceva: le borse sono come un orologio rotto, due volte al giorno danno l'ora esatta, ma per tutto il resto l'ora non è quella vera. E io credo che questo tutti lo dovrebbero sapere. E devo dire che anche Berlusconi ormai sembra un po' un orologio rotto che ripete anche questa cosa, l'avevamo sentita dire più volte. Poi lui dice, curiosamente, io lo so perché sono figlio di mio padre che aveva esperienza di borsa, e insomma dobbiamo crederci. Poi dice Berlusconi: credo che la crisi non si aggraverà. Però qualche istante dopo questa frase è arrivato un monito del governatore della Banca Centrale Europea, che dice invece il contrario. Ma sentiamo Berlusconi. Io non credo che la crisi si aggraverà, e non dobbiamo essere spaventati dal fatto che, per esempio, possono mantenersi gli spread attuali. Certo, ci vuole ottimismo, questo Berlusconi lo dice sempre e probabilmente non ha torto da questo punto di vista, e lui di ottimismo vuole infonderne a tutti, per esempio ricordando che questo è il momento invece proprio di investire, per esempio anche nelle sue aziende, così ha detto, sentiamo. La borsa ha una sua vita assolutamente scostata da quella che è la realtà economica. Io non ho mai operato in borsa, sono un imprenditore, ho collocato le mie aziende in borsa e in questo momento se avessi risparmi importanti da parte investirei prepotentemente nelle mie aziende che continuano a dare i risultati economici che davano gli anni passati, che non sentono in questo momento nessuna reazione negativa dai mercati, dalla situazione economica e che sono assolutamente sottovalutate, come in gran parte tutte le aziende che hanno la quotazione di borsa, dal movimento borsistico, dalle speculazioni borsistiche. Preda, Eridania, Iri, Mediobanca. Poi immancabile, tra l'altro c'è un retroscena perché durante l'incontro con le parti sociali pare che Berlusconi si sia lamentato nuovamente dei PM, di Magistratura Democratica, dei giudici e di non so che altro, argomenti che sicuramente non avevano molto a che fare con i temi in agenda, tutti economici, tutti sulla crisi economica. Questo è quello che alcune agenzie di stampa hanno riportato come retroscena, citando anche l'imbarazzo dei presenti che dicevano, beh, insomma, di che stiamo parlando? E poi l'immancabile critica ai giornali, ai media e quindi anche a noi che dipingiamo la realtà troppo negativamente, è un po' colpa nostra anche, dice Berlusconi, se le cose non vanno, sentiamo. Ieri io in Parlamento ho cercato di comunicare al Paese la solidità del nostro sistema bancario, le condizioni di solidità delle nostre banche, delle nostre imprese, la situazione delle nostre famiglie e quindi ho cercato di indurre l'opinione pubblica che molto spesso, leggendo i giornali, vedendo la televisione, ha un'immagine del Paese che secondo me è più negativa, molto più negativa della situazione reale, ha invece un ottimismo, ha la voglia di fare, ha la voglia di investire, ha la voglia di consumare. Io non so a chi dobbiamo credere, però sentite qua, fa un certo effetto mettere a confronto queste dichiarazioni con quelle del Presidente della Banca Centrale Europea che dice... L'incertezza l'ha detto proprio negli stessi minuti in cui Berlusconi stava facendo queste dichiarazioni. Ha detto l'incertezza è particolarmente alta. La crescita economica dell'area euro è in decelerazione, cioè sta frenando. E poi gli attuali rischi al ribasso per lo scenario macroeconomico dell'area euro potrebbero intensificarsi. Poi dopo ha detto che è positivo il fatto che l'Italia possa anticipare la manovra, sembra quasi che ci sia stata una correzione di rotta. A proposito della BCE, sentite questo siparietto tra Berlusconi e Tremonti che non vanno d'accordo sull'intervento, quantomeno sul fatto che l'Italia si debba coordinare con la Banca Centrale Europea. Sentiamo. A partire da questo agosto noi saremo attivi anche su questo segmento. Non solo, ripeto, Italia su Italia, ma aprendoci al confronto con queste istituzioni internazionali. Su questo anche la BCE, importante. Credo che sia molto importante, ma non coinvolgibile in questo tipo di... Informabile, però sì. (800) 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra pochissimo facciamo una breve pausa per il traffico. A settembre mi dirai quanti amori porterai. Ed è settembre la parola magica, perché a settembre ci saranno questi interventi. Vedremo quali che durante agosto verranno messi a punto dal governo seguendo alcune delle indicazioni che sono venute oggi dall'incontro con le parti sociali. Nonostante insomma ci sia un po' di fretta di intervenire, se ne riparlerà a settembre. Così il ministro Romani sulla tempistica, diciamo, dell'intervento. Se c'è un'immagine a cui posso pensare, visto che sei uomo di comunicazione, è Man at Work. Quello che si vede sulle autostrade quando si stanno facendo i lavori. Anche women. Anche women, certamente, ma in quel caso il cartello è riservato solamente ai maschietti. Quindi lavoreremo a tutto agosto, sarà un agosto di lavoro, sarà un agosto di lavoro perché le proposte le dobbiamo fare in settembre e per farle a settembre dobbiamo ovviamente lavorare tutto agosto. Non so voi, ma a me rimane la sensazione che si sia rimandato ancora una volta. Ma quali proposte? Insomma, le cose da fare le sanno tutti, quelle cose che bisogna fare: abolire le province, tagliare i costi, tagliare gli sprechi, abbassare gli stipendi dei parlamentari, far partire la crescita in qualunque modo. Non si sa perché bisogna aspettare. Questo è però l'esito dell'incontro. Facciamo un passo indietro, che ci fosse un clima da rivediamoci dopo le vacanze, si è capito anche ieri durante i vari interventi che si sono succeduti, abbastanza calorati alcuni, piuttosto moscetti altri, a seguito dell'intervento del Presidente del Consiglio. Cominciamo a risentire qualcuno di questi interventi, per esempio Alfano, che è scatenato anche lui contro le borse. Da quando in qua, onorevoli colleghi, sono i mercati a scegliere i governi? Da quando in qua sono i mercati a stabilire che i governi vadano a casa? Ed il popolo e i cittadini e ciascun cittadino che ruolo ha nella vostra visione della politica, della democrazia e del paese? E poi il segretario del PD Bersani, a dire la verità, un po' sottotono, è stato sottolineato, un po' moscetto anche lui, sembrava che non ci credesse neanche lui, sentiamo. Ma signor Presidente del Consiglio, o lei ha sbagliato discorso o ha sbagliato Parlamento, perché noi siamo in Italia e non si può descrivere la nostra situazione con i tratti di un cielo azzurro con qualche nuvola che adesso spazziamo via facilmente. Credo che l'unico merito del suo discorso sia stato quello di essere stato fatto a mercati chiusi, francamente. Crozza, crozza, crozza, gridavano, credo, dalla maggioranza verso Bersani, riferendosi all'imitazione di Maurizio Crozza, sembrava l'imitazione. L'unico discorso di una certa concretezza è sembrato quello di Casini, che ha detto: anticipiamo la manovra, proviamo a fare qualcosa subito, sentiamo. La tempesta di neve non mi sorprenderà. Settembre che sarà? Abbiamo la manovra spalmata nel 2013-2014. Voglio fare delle proposte concrete, anche se molto banali, forse. Noi chiediamo di anticipare con un decreto parte significativa della manovra del 2013-2014. Vabbè, almeno questa era una proposta. Anticipiamo, facciamo subito qualche cosa. E poi il cabaret di Di Pietro, che ieri era veramente in forma, forse l'unico che ha tenuto un po' il tono di questa seduta agostana da rivediamoci a settembre. Sentiamolo. Silvio, lei ci è o ci fa? Caro Silvio, ma lei ci fa o ci è? Cioè, fino a che punto pensa di prendere in giro gli italiani? Mi viene da sorridere se non mi venisse da piangere. Se non ci fossero 1 milione di cittadini di italiani e di famiglie che stanno piangendo. Cioè, lei è la nuova Alice nel Paese delle Meraviglie o è il più grosso bugiardo della storia? Cioè, non se ne può più! Cioè, un discorso da un tono allegro e tutto sommato anche divertente, però insomma anche in questo caso forse di sostanza, non lo so, politica, non è che se ne intravedesse moltissima. Reguzzoni della Lega, che dice basta sprechi, basta, come se fosse però lui all'opposizione, non al governo. Basta ad esempio spendere per le pensioni di invalidità 7 volte la media OCSE, perché in intere regioni e province la falsa pensione di invalidità è uno strumento di assistenzialismo. Basta anche accollare sulla collettività i costi degli immigrati clandestini o dei sedicenti profughi. Adesso basta, tornino a casa, perché purtroppo noi non possiamo permetterci di tenerli qua. E basta permettere davvero al sindaco di una grande città come Napoli di mandare avanti e indietro i rifiuti sprecando i soldi destinati allo sviluppo economico, soldi che potrebbero essere più utilmente impiegati. Invece deve fare gli inceneritori, le discariche, come tutti noi facciamo nelle nostre province. E ripeto, come se fosse all'opposizione la Lega anziché al governo. Oliviero Di Liberto, buonasera. Buonasera. Segretario dei Comunisti Italiani, al telefono con noi. Per una volta forse sarà d'accordo con Berlusconi quando dice che la borsa, che in queste ore ci sta mettendo tanto in difficoltà, è lontana dalla realtà economica, dall'economia, e poi ha detto è come un orologio rotto che segna il tempo giusto solo 2 volte al giorno. Di Liberto. Ma guardi, i terremoti in borsa sono sempre frutto di qualcosa, non è che è il caso, non è l'orologio rotto che segna 2 volte l'ora giusta. È semplicemente che c'è una drammatica crisi di leadership in Italia i mercati sono sensibilissimi al tema della fiducia e da questo punto di vista è evidente che una seduta parlamentare come quella di ieri non può che lasciare sgomenti i cittadini e influenzare gli speculatori a fare quello che fanno, perché è evidente che è un paese allo sbando. Allora, devo dire che la palma d'oro delle dichiarazioni più irreali, più surreali, ce l'hanno Scili Poti, che oggi ha detto alle 15.08, è uscita un'agenzia, sono molto soddisfatto del discorso di Berlusconi, com'è che dice? Vediamo, la fiducia del Premier nelle forze e negli strumenti a disposizione del nostro paese è stata recepita anche dagli operatori finanziari, facendo registrare l'apertura positiva di Piazza Affari. Peccato che a quell'ora le borse fossero già pesantemente... Stava già crollando. E poi c'è anche Michela Biancofiore del PDL, che anche lei ha detto l'apertura di borsa, questa però è uscita l'agenzia alle 10 del mattino, era comprensibile un certo ottimismo, l'apertura delle borse è positiva e tutti si devono ricredere, quelli che hanno criticato Berlusconi, e poi sappiamo come è andata a finire. Diliberto, lei non sarà nostalgico, vero, del lavoro parlamentare, visto che non è un bel momento, insomma, ci sono tanti problemi da risolvere, c'è la crisi, i parlamentari sempre col fiato sul collo degli italiani che vorrebbero, insomma, fargli le penne come i polli, no? Guardi, io non sono nostalgico, anche perché credo di essere l'unico segretario di partito nella storia della Repubblica Italiana ad aver lasciato volontariamente ad un operaio il mio seggio in Parlamento nel 2008, quindi diciamo che avendolo scelto ovviamente non ho nostalgia. Devo dire che mi avrebbe fatto piacere ieri partecipare, perché avrei voluto dire alcune cose in Parlamento, che è il luogo dove c'è la rappresentanza del popolo, anche se con questa legge elettorale è una rappresentanza sui generis. Cosa perché avrebbe detto? Nessuno dice una cosa banale, che però è fondamentale, e cioè che il paese che è uscito alla grande dalla crisi e sta trainando tutta l'Europa, cioè la Germania, ha fatto delle misure quando è arrivata l'ondata della crisi nel 2008 che apparentemente sembravano in controtendenza, perché in Germania anche le imprese private, penso alla Volkswagen, ha diminuito l'orario di lavoro a 32 ore, vi ricordate la pippa delle 35 ore? Beh, 32 in Germania, hanno aumentato i salari del 6% e contemporaneamente hanno provveduto ad una enorme, massiccia inversione di tendenza dal punto di vista della spesa, e cioè hanno speso per assumere ingegneri nelle aziende. Pensi, solo la Volkswagen in un mese ne ha assunto 400, e cioè hanno puntato sulla qualità del prodotto. Nella globalizzazione può piacere o non piacere, ma nella globalizzazione si è competitivi se si dà un prodotto migliore, perché è del tutto evidente che noi non possiamo competere sul prezzo, noi in Europa, comprimendo il costo del lavoro come fosse in Asia. Non ho capito, scusi, questa cosa della Germania che secondo lei sarebbe uscita dalla crisi aumentando i salari e facendo lavorare di meno? Beh, guardi, sono i dati della Volkswagen, che è diventata il secondo venditore di auto al mondo, altro che Fiat e Marchion. Volkswagen, quando è arrivata la crisi, ha fatto due cose in controtendenza. Ha diminuito l'orario e ha aumentato il salario, perché chiunque abbia un minimo di frequentazione con i lavoratori veri sa che se sono contenti sono più motivati e lavorano meglio, però contemporaneamente ha assunto, come le dicevo, 400 nuovi ingegneri, sono i dati del Sole 24 Ore, io li ho tratti da lì, quindi diciamo non sono precisamente dei dati della mia parte politica, però hanno fatto bene. E cioè hanno fatto sul serio il loro mestiere di imprenditori, cioè hanno investito sulla qualità. Ora, da noi si è tagliato selvaggiamente proprio nel settore della scuola, dell'università e della ricerca pubblica, per cui siamo tagliati fuori dall'unica chance vera che si ha per essere competitivi quando c'è la crisi, e cioè appunto la qualità. Senta però, Diliberto, se l'alternativa ai tagli, diciamo, ai servizi, come dice lei, sono le tasse, per esempio Alfano ha detto, lo sappiamo i governi tecnici o altri governi che cosa farebbero adesso, metterebbero le tasse. Non ho parlato di tasse, la prego di ricontrollare la registrazione. Sì. Infatti le stavo io facendo una domanda, cioè secondo lei invece ci vorrebbe... Che cosa ci vorrebbe per l'Italia per uscire da questa situazione, dato che il debito pubblico ce l'abbiamo, non ce lo leva nessuno, o si taglia o si fanno delle tasse? La mia opinione è che per esempio ci vorrebbe una patrimoniale, una legge patrimoniale che colpirebbe sicuramente le grandi rendite, i grandi patrimoni immobiliari che non sono quelli di proprietà del piccolo proprietario di casa, di abitazione, e intanto darebbe una prima, come dire, un primo sollievo ai conti pubblici dell'Italia. Però in prospettiva ci sono alcune cose da fare, ripeto che sono delle cose indispensabili per un paese moderno. Noi dobbiamo elevare l'obbligo scolastico, dobbiamo rendere i nostri lavoratori competitivi, dobbiamo fare in modo che l'impresa sia alleata della cultura e del sapere, non nemica, perché se si continuano a tagliare i servizi, oltre a fare una cosa profondamente ingiusta, in realtà si deprime proprio l'economia. D'altro canto, se non ci sono salari e pensioni che tirano, tutto il resto dell'economia, come noi sappiamo perfettamente, tutto il resto dell'economia va a rotoli, perché anche i commercianti, anche gli artigiani, anche gli imprenditori non hanno di che cosa campare, perché non c'è la domanda interna. Quindi sì, devo rispondere alla domanda iniziale, ieri sarei voluto essere in Parlamento, perché discorsi di questo genere non ne ho sentito. Senta, resti con noi, resti in linea, facciamo un aggiornamento con le borse, tra l'altro così scopriamo se c'è questa benedetta chiusura del FTSE MIB, e poi le voglio fare anche una domanda, perché un articolo che sarà pubblicato domani sull'Espresso ritira in ballo la questione dei privilegi della casta e cita anche lei, Diliberto, tra un attimo. Diliberto, ieri all'intervento al Parlamento Di Pietro ha citato una dichiarazione di Marchionne. Allora gliela faccio sentire, poi la commentiamo insieme. Ma le voglio dire, leggere, un'agenzia fresca che è stata appena pubblicata di un noto comunista, il nome glielo dico dopo però, cioè parole dette dopo il suo intervento, ascoltami, è necessario, mi ascolti, caro Silvio, ascoltami, dice questo comunista, è necessario avere una leadership più forte che ridia credibilità al paese, cattivone, dice ancora, abbiamo un grande problema di credibilità nel paese, perché serve una leadership diversa. Il mondo non capisce la nostra confusione, non capisce cosa accade in Italia e tutto ciò ci danneggia moltissimo. C'è chi ha compiuto anche scorrettezze mentre al governo, nella sua vita quotidiana. In altri paesi sarebbe stato costretto a dimettersi immediatamente, invece da noi non succede nulla. Mi fermo qui, però sa chi l'ha detto? L'ha detto Marchionne mezz'ora fa. Oh! Sto comunista Marchionne, ma tu capisci, caro Silvio, capisci. Diliberto, a parte lo ascoltami, è riferito da Di Pietro a Berlusconi. Sì, diciamo che la grammatica non è forte. Però diciamo che è stato l'unico intervento che aveva un po' di tono, era un po' brillante ieri, era in forma Di Pietro. Sul tono abbiamo detto, ma sul contenuto, lei per una volta è d'accordo con Marchionne, ci vuole questa leadership forte, e con chi ce l'aveva secondo lei Marchionne? Poi c'è stata una smentita, una nota, non so se si è saputo. Sì, ho visto. Marchionne ce l'aveva con Berlusconi, è evidente. E credo che si possa dire, senza dietrologie particolari, che la Confindustria in generale, e in questo caso specifico uno dei più importanti tra i manager dell'Europa, non soltanto dell'Italia, cioè Marchionne, si vogliono liberare di Berlusconi, perché si rendono conto che comunque sia rappresenta ormai un ostacolo, l'impressione che non sia nemmeno più lucido. Cioè quando vede le parti sociali, invece di parlare di economia, parla delle intercettazioni. Io ho l'impressione che davvero sarebbe opportuno staccare la spina per tutti, anche per Berlusconi. Senta Diliberto, staccare la spina è quello che chiedono le opposizioni, ma naturalmente non è una cosa che uno possa fare da sé, che Berlusconi si possa staccare la spina da solo, questo è impensabile. Posso fare un ragionamento di 3 secondi? Se Berlusconi continua così, alla fine il governo tecnico lo faranno. E il governo tecnico è la morte politica di Berlusconi. Secondo me la via maestra per tutti, anche per Berlusconi, è andare ad elezioni politiche anticipate. La Spagna le fa a novembre, perché non le possiamo fare anche noi? Senta, chiediamo ai nostri concittadini da chi vogliono essere governati e sulla base di quale programma. Vabbè, questa certo è un'ipotesi. Un'altra cosa che le voglio chiedere è questa: è lavorare ad agosto, il Parlamento che chiude, il governo che dice lavoreremo, Calderoli aveva proposto un campus estivo delle riforme, è demagogia secondo lei, oppure davvero bisognerebbe lavorare ad agosto? Lei per esempio cosa avrebbe fatto? Sarebbe andato in vacanza o sarebbe rimasto sullo scranno del Parlamento o al governo a lavorare? Sarei rimasto in Parlamento se il Parlamento fosse rimasto aperto, nel senso che se lo chiudono, uno non è che si fa chiudere dentro il Parlamento, non è che ha molto senso. Credo che sarebbe stato utile comunque quest'anno non chiuderlo, anche perché le fibrillazioni dei mercati non è che si fermano come la scuola per andare in ferie, continueranno, e quindi secondo me sarebbe stato molto utile tenerlo aperto. Evidentemente, diciamo, non hanno molto a cuore le sorti del paese, quelli che stanno lì, me ne dispiace. Senta, a proposito, lei l'abbiamo raggiunta in vacanza, dove si trova? Io sono a casa mia in Sardegna, io ho la fortuna di avere la nascita a Cagliari e quindi di quando torno a casa di stare anche in vacanza. Ah, bellissima, città meravigliosa tra l'altro. Grazie, sì, ne sono convinto anche io. Senta, c'è un articolo che apparirà domani, credo, sull'Espresso, anticipato oggi da Repubblica.it, che parla del vitalizio, dice: la casta taglia le pensioni degli italiani ma non tocca le proprie, per i parlamentari il diritto al vitalizio scatta dopo soli 5 anni di mandato, con contributi molto bassi e con compensi incassati anche prima dei 50 anni. Lei è nell'elenco, si sente parte della casta? Ma guardi, come le dicevo all'inizio, io l'ho lasciato il Parlamento volontariamente, quindi credo di essere tutto tranne che casta. Però il vitalizio? Ho messo il vitalizio, me l'hanno dato dopo 15 anni e non dopo 5 anni, me l'hanno dato, secondo me è sbagliato che ci sia. Ma non si possono fare dei gesti, lei dice è sbagliato che ci sia, e questa è già una posizione, però dal punto di vista suo personale non può far nulla per dare un segnale? Guardi, non potrebbe far nulla. Sì. Io ho fatto una cosa che rivelo qui alla Zanzara per la prima volta, è una cosa che ho fatto i mesi scorsi, la liquidazione dell'indennità parlamentare che mi è stata versata dopo che ho smesso di essere parlamentare, sì? L'ho investita in una piccola operazione, piccola, grande, insomma una bella operazione credo, perché ho aperto una biblioteca aperta al pubblico. A Roma, e ci vengono i ragazzi a studiare, quelli io insegno, come lei sa, all'Università di Roma, sì. E i laureandi, i dottorandi, è aperta. Credo di aver fatto una cosa non per me stesso, d'altro canto io non ho figli, a chi le devo lasciare? Sarà gratuito ovviamente. Assolutamente, ci mancherebbe altro, il sapere è gratuito. Pensi che io ho anche abolito il libro di testo, che gli editori non sono felicissimi. Ah, lei nei suoi corsi ha abolito i libri di testo? Sì, che la cultura non si deve pagare. Però la biblioteca... Che vengono a lezione, si preparano direttamente sulle lezioni e basta. Quanti libri ci sono nella sua biblioteca? Beh, nella mia biblioteca. No, in quella che ha aperto per i ragazzi. È sui 20.000. 20.000 volumi. E di che cosa in particolare? La sua disciplina, forse? Sono volumi di lavoro. Sì. Storia antica, di diritto romano e da qualche anno a questa parte, da circa 10 anni, anche di diritto cinese, visto che io collaboro ormai da tempo con il governo cinese, con le università cinesi per il codice civile. Ah, questo non lo sapevo. Ma ho dato un sacco di notizie stasera. Beh, incredibile. Ci dia un'altra notizia. Quanto se ce lo può dire, se ce lo vuol dire, quanto ha investito in questo progetto, che è un bel progetto evidentemente, di suo? Ho investito circa 150.000 euro, per tutta la liquidazione che mi ha dato la Camera. Ah, benissimo, questo è un bel gesto, insomma. Però il vitalizio invece... È una cosa che mi piace, che ho fatto davvero con grande convinzione, perché appunto a me la politica ha dato tanto. Io credo di aver dato alla politica, ma mi ha dato tanto. Sto restituendo qualcosa alla collettività. E invece sul discorso del vitalizio lei è d'accordo sul fatto che andrebbe ridimensionato, tagliato? No, ma guardi, secondo me dovrebbe funzionare così, e cioè che lo Stato può tranquillamente versare i contributi figurativi per coloro che vanno in aspettativa obbligatoria perché sono dei dipendenti, in modo tale che ci sia la congiunzione del periodo lavorativo pregresso e quello successivo durante il mandato parlamentare. Ma il fatto che il mandato in quanto tale garantisca una pensione in più, secondo me è proprio sbagliato. Grazie. Grazie a voi. Olivero Diliberto, buona serata, 18.42, tra poco ascoltatori all'824 0024, prima sentiamo i titoli di studio aperto. Perquisizione in corso nella caserma di Ascoli per i magistrati, forse Melania sapeva di un giro di sesso e droga e voleva rivelarlo. A setaccio l'armadietto di Parolisi che davanti ai giudici fa ancora scena muta, nel suo PC trovati indirizzi di trans. Un patto per la crescita e la coesione sociale, questo è l'obiettivo annunciato da Berlusconi dopo l'incontro a Palazzo Chigi con le parti sociali. Esco dalla riunione, ha commentato il premier con più ottimismo. In Europa nuova giornata nera per i mercati. Mio marito ha gettato Jason dall'auto di corsa. Nuovo colpo di scena nella vicenda del piccolo di 2 mesi scomparso a Folignano. È la seconda versione fornita dalla madre da quando è stata arrestata. 2 giorni fa il padre ha tentato il suicidio in carcere. Il delitto di Avetrana, Cosimo e Sabrina condivideranno la stessa cella a Taranto. Sono venute meno le ragioni della separazione, dicono dal penitenziario. Gli avvocati, non è un problema di sovraffollamento. Ma quale triangolo? La mia storia con Marina è finita e con Magnini non c'è niente. Federica Pellegrini si confessa ai nostri microfoni e l'ex subito risponde: mi hanno deluso entrambi, ma il capitano azzurro alimenta il gossip. Chiarirò tutto con la mia fidanzata. Clooney dimentica la Canalis con questa bionda. Benissimo, questi sono i titoli di studio aperto. Adesso rispondo a un ascoltatore che al 349-238-6666 dice: Max da Trento, la Spagna anticipa di 4 mesi le elezioni, non di 2 anni. Maurizi, lei è di una faziosità disgustosa. Però non l'ho detta io questa frase, l'ha detta Diliberto. Io non è che posso rispondere a qualunque cosa che dice l'ospite, insomma, se ne assume lui le responsabilità, se dice una balla. Ascoltatori, Beppe dalla provincia di Bergamo, buonasera. Buonasera, grazie per aver chiamato. Io chiamo perché mi voglio ricollegare a una frase che ho ascoltato da un vostro radioascoltatore, detta ieri sera. Oggi purtroppo non ho potuto ascoltare la vostra bella trasmissione perché sono impegnato col lavoro e magari ripeto quello che qualcuno ha già detto, ma la frase che mi ha colpito è stata quella: mandiamoli a casa tutti, che è oramai sulla bocca di tutti. E questa cosa mi dà un po' fastidio perché è come sparare sulla Croce Rossa, nel senso che è troppo facile adesso deresponsabilizzarsi e fare la caccia alle streghe, dare la responsabilità solo a chi ci governa. Vorrei chiedere agli italiani in generale, insomma, dove eravamo quando questi facevano i loro affari, dove eravamo quando, anziché pensare alla finanza, anziché pensare ai conti pubblici, si pensava a Bunga Bunga, a problemi molto molto più irrisori che questi. Tutti hanno fatto o non fatto la loro parte, ma anche noi piccoli cittadini. Io non ho ancora sentito nessuno dire: ok, la situazione è questa, la colpa è di tutti, li abbiamo eletti, li abbiamo messi lì, ce ne siamo lavati le mani, non siamo stati attenti, non abbiamo fatto il nostro dovere da cittadino e ora ci rimbocchiamo le maniche e io per primo comincio a, che ne so, tagliare un pochettino la mia pensione, sono favorevole a questo. Io non sentirò mai nessuno dire questo. È troppo facile dire: la politica costa, hanno rubato, hanno fatto, hanno detto, ma noi nel nostro piccolo siamo a posto con la coscienza? No, perché io... Bel intervento, personalmente grazie, io condivido tutto quello che lei ha detto, mi sembra pieno di senso di responsabilità, quello che lei dice non va molto di moda, forse avere senso di responsabilità, però... È corretto quello che lei dice, o ci si scandalizza sempre oppure non ci si può scandalizzare a giorni alterni. Abbiamo il traffico e poi torniamo tra pochissimo, 824 0024. E allora riprendiamo, come detto, con i vostri interventi. Abbiamo Giovanni che chiama da Milano. Buonasera. Buonasera Alessio, grazie di esserci. Prego. Questa è la mia zanzara. La prima cosa, volevo rispondere un attimo all'ascoltatore di prima. Perché lui dice che noi non c'eravamo, non è assolutamente vero, magari lui non c'era, ma molti altri c'erano e hanno cercato di cambiare le cose, l'esempio è quello di Milano, abbiamo cambiato qualcosa, ci siamo dati da fare. E c'è un altro particolare, noi come lavoratori dipendenti, pensionati così, siamo comunque colpiti dalla manovra, quelli non colpiti sono la casta, Quindi io, da buon padre di famiglia, quando la mia casa brucia, non vado in vacanza, non prendo la decisione a settembre, la prendo subito. Faccio come ha fatto Ciampi a suo tempo, riunione in una bella stanzetta, dentro quelli che contano, non si esce fin quando non si è risolto il problema. Il problema, l'ha detto lei, è molto semplice, eliminazione di tutti i privilegi della casta, gli stipendi loro, se li riduciamo dell'80% sono sempre il triplo del pensionato, tanto per capirci. Poi che cosa facciamo? Eliminiamo le province, come ha detto lei, i comuni, quelli se non arrivano a 10.000 almeno, li eliminiamo, li accorpiamo, le province che tutti hanno detto, la Lega, una vergogna quello che sta facendo la Lega, quello che dice che gli altri devono fare, legge vergogna, la legge sulle quote latte per esempio, ma di cosa parla Reguzzoni? Ma non si vergogna, Alessio, cosa dici? Grazie, ancora, c'è ancora un po' di sfogo? Finisco lo sfogo, dico, sì. Facciamo un decreto subito, li colpiamo tutti quelli che proporzionalmente bisogna sistemare la situazione, perché se no il mercato, sì. Quello là diceva che l'orologio è rotto, c'è rotto qualcos'altro qua, c'è rotto proprio il rapporto tra la politica e il paese, questi vivono in un altro mondo, bisogna fare qualcosa, presa questa decisione dalle persone che contano, e fanno il decreto legge, si ripristina la vecchia legge elettorale e si va a votare subito. Grazie, lei con questo suo sembrava un po' Mike Buongiorno, grazie Giovanni da Milano, tra l'altro appunto milanese anche lui. Marco da Padova, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Ascolti, sento nominare Reguzzoni, ho perso la prima parte della chiamata, spero di non ripetermi, ma tra i mille possibili commenti rispetto alla giornata di ieri ho avuto la malaugurata idea di guardare in diretta alla Camera e quindi seguire i nostri parlamentari, volevo stigmatizzare quello proprio del rappresentante della Lega di Reguzzoni. Allora è partito nell'ordine parlando dei disabili, siamo a Radio 24, quindi io sono disabile, peraltro, quindi la materia mi tocca in prima persona. Che cosa ha detto Reguzzoni a proposito dei disabili? Ha fatto dei numeri, ha detto i falsi invalidi, cioè questo falso problema che esiste in Italia, nel senso che è indubbiamente vero che la media delle persone che usufruiscono di questo beneficio qui è più alta che in altre parti, ok? Però invito i nostri benedetti parlamentari a prendere chi concede queste pensioni, che sono le commissioni di invalidi, le commissioni, quindi medici, ok? E quindi persone sulle quali il Parlamento può intervenire, la pubblica amministrazione può intervenire e andare da loro a chiedere conto, ok? Non sempre solo dal disabile che tra virgolette ci prova, ok? Ma in qualche occasione ottiene. Quindi la finiscano di dire basta con i falsi invalidi, vadano a prendere uno per uno i medici che hanno concesso la pensione quando li trovano e li licenziano in tronco. Ma torniamo al punto. Hanno parlato di 200.000 controlli e di 30.000 falsi invalidi scovati, d'accordo? Allora, premesso che io invito tutti a controllare i numeri, ha poi detto che questo porta allo Stato 1 miliardo di risparmio. Allora, fate due conti. Un invalido al 100% sì. Prende una pensione di 480 euro, un'indennità di accompagnamento si chiama, di 480 euro per 12 mesi, più se non lavoro, se ho un reddito inferiore ai 15.000 euro all'anno, grosso modo, una pensione di circa 250 euro. Ecco, questo non lo so perché per fortuna lavoro da 10 anni, quindi non la prendo da tempo e non mi ricordo esattamente quant'è, ma è circa 250 euro. Quindi totale 730 euro, diciamo pure 750. Allora, moltiplichiamo per non per 30.000. Cioè lei dice le somme non tornano. E quanto farebbe la cifra secondo il suo calcolo? Non torna un accidenti, perché i 30.000 falsi invalidi cosiddetti faranno ricorso e il 90% di questi otterranno indietro la pensione. Vabbè, però questa è un'altra cosa. Se ci arrendiamo anche di fronte ai falsi invalidi, allora è finita. Matematico. Ma cosa? Ascolti, mio fratello è invalido come me. È stato chiamato 3 volte negli ultimi 6 mesi. È in carrozzina da 30 anni. È un falso invalido. L'INPS, per fare questi controlli, ha assunto non so quanti medici e mi risulta che abbia speso 20 milioni di euro per assumere nuovi medici che si dedicano a questi controlli, ok? Ripeto, mio fratello è stato chiamato 3 volte nell'ultimo anno all'INPS di Padova, che è inaccessibile, i controlli vengono fatti al secondo piano, la prima volta i medici si sono scusati, allora mio fratello ha una patologia cronica progressiva, ok? Che purtroppo non porta a camminare, porta a peggiorare. Sì, sì, ma però se sono veri invalidi, allora è chiaro che il discorso di reduzione non ha senso. Però ci sono anche falsi invalidi e lo sappiamo benissimo. Sì. Qualcuno dovrebbe fare i conti e dimostrare. Allora, io ho fatto i conti e sono al massimo, fate 30.000 per 750 per 12 mesi, mm-hmm, per arrivare al miliardo, posto che, ripeto, tutti siano invalidi effettivamente, questi 30, falsi invalidi questi 30.000, ok? Lasciando perdere i costi per i controlli, sì, vabbè, insomma, che a mio avviso pareggiano. Secondo lei i conti non tornano e Reguzzoni avrebbe sparato una balla? Non lo so, io non ho gli elementi, non conosco la materia, non ho gli elementi per valutarlo, però... magari qualche altro ascoltatore invece sì, conosce la materia, sentiamo che ne pensate. D'altra parte non credo che si possa in qualche modo essere contro la lotta ai falsi invalidi, perché ne abbiamo sentite fin troppe di queste questioni, ciechi che guidavano e che avevano la patente o altre ancora più divertenti di questa, e che poi alla fine insomma ci costano, come no. Dove andiamo? Andiamo in provincia di Arezzo. Giovanni, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Senta, io volevo parlare di quanto riguarda, diciamo, il discorso che ha fatto il Presidente del Consiglio, quello sulla borsa. Sì, l'orologio rotto. Sì, no, diciamo, io mi sento, diciamo, per usare un eufemismo, offeso, perché... Perché? Ma perché uno che fa quel ragionamento cosa implica? Implica che la borsa è un qualcosa di fittizio, qualcosa, diciamo, di irreale, di virtuale. Mm-hmm. Ma questo non è così. Come fa a volerci indurre a credere che questa storia è una cosa virtuale, che i mercati vanno per i fatti loro come se fossero un'entità irreale? Ma anche se questo fosse... Il dato di fatto è che tutta la nazione sta soffrendo. Cioè, io davanti a un discorso del genere mi irrito, perché è un... Cioè, secondo lei la crisi non è solo delle borse, ma è proprio dell'economia, delle persone, una cosa reale. E io, diciamo, mi sono fatto un'idea, per quella che può valere, no, naturalmente. Sì. L'idea è che, diciamo, c'è proprio uno scollamento tra quello che è reale e quello che è ideale. È anche un concetto di linguaggio. Cioè, se è perso... diciamo, quello che è qualcosa di tangibile, perché è come il mito di Icaro, cioè siamo volati troppo alti, abbiamo perso di vista la terra in qualche modo, perché tutti questi aspetti che stanno venendo fuori in realtà, e sono sempre, per quello che ho potuto seguire, no, io non sono sempre, diciamo, quasi sul nulla. Però in realtà le ricadute sono molto pratiche, sono molto reali e sono drammatiche. Grazie anche a lei. Un altro ascoltatore, Francesco da Verona, buonasera. Buonasera a lei, direttore, e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, io non ho avuto modo di sentire le dichiarazioni in diretta del Presidente del Consiglio ieri sera, però ho avuto modo di sentire i vari spezzoni. Penso di essere una mosca bianca, visti anche tutti gli interventi che sono stati fatti ieri sera a riguardo. Reputo un discorso che abbia appoggiato su dei concetti di responsabilità e buonsenso. Purtroppo succede da un po' di tempo che ogni volta che il nostro Presidente, e voglio fare una premessa, non sono né schierato né tifoso e voglio parlare esclusivamente da italiano. Succede purtroppo che ogni volta che parla il nostro Presidente del Consiglio, se parla, se non parla, è oggetto di feroci critiche, se ha parlato ha sbagliato, se non ha parlato ha sbagliato, e purtroppo sto tanto qua, non va bene, secondo me. Io sono veneto e vorrei dare un esempio di praticità dei veneti, per stare coi piedi per terra e dare delle indicazioni piuttosto pratiche. La demagogia lasciamola perdere a chi si perde nei media e nei discorsi di bottega. Vedi, i vari politici, tanto per fare qualche nome, abbiamo Casini oggi, ma Casini abitualmente, Finocchiaro, Bersani e vari. Devo chiuderla qua perché abbiamo il giornale radio e dobbiamo essere puntuali. Al massimo lo facciamo intervenire dopo 824 00 24. A più tardi. 19:18 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800-24-00-24 349-238-6666. La Zanzara è radio24.it. I vostri commenti su Facebook all'intervento di Oliviero Diliberto nella prima parte del programma. Non ci ha mai capito un C puntato di economia. C puntato lo dico io perché la parola è un'altra, di economia, ed è sempre stato contro. Dovevate ospitare un analfabeta in merito alla questione per discuterne, dice Beppe. Beh, è vero, Diliberto è un giurista, però non è che gli altri politici ne sappiano tutti tantissimo di economia. Ulderico dice: ma per cortesia, parlare di economia con un comunista è come parlare di calcio con una donna. Questa, volendo, non è male. Chi se ne frega di quello che pensa un comunista, dice l'intollerante Gianluca. E poi Dario: il problema non è il buon gesto della biblioteca, il problema è che abbia ricevuto 150.000 euro di liquidazione. Una persona normale per guadagnare 150.000 euro deve lavorare 10 anni. Poi c'è Paolo che dice: scommetto che la stragrande maggioranza delle persone che qui si riempiono la bocca in generale contro i comunisti non hanno mai letto nulla di serio in proposito, ad esempio Marx o Marcuse, miserabili ignoranti. È così, grazie anche a quelli che ci seguono su Facebook. Andiamo con i titoli dei telegiornali. Sky TG24. Borse a picco, l'Europa brucia 170 miliardi, male anche Wall Street. Blackout a Milano, Piazza Affari chiude senza indicare il valore del FTSE MIB. Trichet spinge l'Italia, anticipare il pareggio di bilancio è possibile. Anche le parti sociali incalzano, Confindustria e sindacati chiedono di agire subito. Berlusconi resta ottimista, programma di rilancio in 8 punti, dice il Premier. Bersani insiste, esecutivo subito a casa, l'UDC chiede di anticipare la manovra. Migranti soccorsi al largo di Lampedusa raccontano decine di morti in mare. 4 militari italiani feriti in un attentato in Afghanistan, non sono gravi. Delitto di Avetrana, da oggi Cosima e Sabrina Misseri sono nella stessa cella. -2 alla Supercoppa, delirio cinese per il derby Milan-Inter a Pechino. Così Sky TG24, adesso TG3. Borse a picco in tutto il mondo, Piazza Affari ancora la peggiore, allarma Banca Centrale Europea, in Europa incertezza alta, l'Italia anticipi il risanamento. Le parti sociali incalzano, il governo con un documento comune in 6 punti per la crescita, servono interventi immediati. Il governo promette misure condivise, ma a partire da settembre l'opposizione non è tempo di rinvii. Battibecco tra Tremonti e Berlusconi in conferenza stampa, il presidente interrompe il ministro che lo gela con lo sguardo. E scontro tra Lega e Colle sulle auto blu del Quirinale, sono 40, aveva attaccato ieri Reguzzoni, la replica a disposizione del presidente, 3 vetture. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama compie 50 anni, alle spalle la battaglia sul tetto del debito e ora quella per le presidenziali del 2012. Cosima e la figlia Sabrina nella stessa cella del carcere di Taranto, da oggi condividono lo spazio e l'accusa, l'omicidio di Sara. Avete sentito anche dai titoli del TG3 lo scontro tra la Lega e il Quirinale sulla questione delle auto blu. Poco fa una dichiarazione di Reguzzoni che ha aizzato questo scontro, dice: non intendo esprimere giudizi in merito alle parole dello staff del Quirinale, che ha smentito la notizia delle 40 auto blu. Le auto blu, dice il Colle, sono solo 3, ma risentiamo il passaggio di ieri di Reguzzoni che ha lanciato questo attacco alla casta nella persona del Quirinale di Napolitano. E basta anche qui senza demagogia, con molta serenità, basta anche con gli alti costi della politica, ma ci sono anche altre cose, ne abbiamo appresa una ieri dall'intervento del collega Leone, ci sono altre cose che veramente stridono. Non è ammissibile che il Presidente della Repubblica, che è uno solo, abbia a disposizione 40 auto blu. Lo ripetiamo, il Quirinale oggi ha detto le auto blu del Capo dello Stato sono solo 3, Reguzzoni poco fa dice: non intendo commentare questa nota, le parole del Quirinale si commentano da sole, ha detto al telefono all'ANSA Reguzzoni. Giancarlo Galan, ministro dei beni culturali, anche lui commentando il discorso di ieri di Berlusconi, che su molti giornali oggi viene inquadrato anche nei toni, qualcuno dice mosci, toni da uno che non ha più la grinta di una volta, Qualcuno dice: ma rimpiangiamo addirittura le gaffe che faceva Berlusconi. È stato un discorso invece piatto, stranamente Berlusconi non è mai così. E allora un nostalgico Galan che parla appunto dei bei tempi in cui era anche protagonista lo stesso Berlusconi, tempi andati, sentiamo. Vedo che lei oggi ha indossato la spilletta di Forza Italia però, e non la spilletta del PDL, perché? È vero, c'è un po' un misto, un po' di nostalgia, un po' di orgoglio per le cose formidabili, incredibili che abbiamo fatto. Era una stagione con più entusiasmo, con più orgoglio, con più speranze. Una stagione in cui abbiamo cambiato il modo stesso di parlare di politica. Ecco, era una stagione di grande partecipazione, di grandi ideali. Una stagione formidabile, rimpiange Galan. Si riferisce probabilmente in questo passaggio a Uno Mattina questa mattina alla creazione di Forza Italia, alla nascita del partito che ha cambiato la politica italiana sicuramente. Ancora Galan. Adesso è una stagione in cui bisognerebbe trovare quegli ideali e fare le cose che abbiamo detto e che abbiamo cominciato a fare e che non abbiamo portato fino in fondo. Non avete portato fino in fondo. Vendere il patrimonio dello Stato, abolire le province, abolire i tanti, troppi enti inutili, insomma ritrovare quel coraggio che sembra che qualcuno di noi forse ha smarrito, sarà l'età. Può darsi, lei aveva... Speriamo che sia solo quella. Ritrovare quel coraggio, abbiamo detto anche noi, ci si aspettava sicuramente di più anche dal passaggio di oggi, non dico abolire le province, però insomma, perché no? Invece di sentirsi dire ancora una volta riorganizzare le province, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ascoltatori all'800 24 00 24 abbiamo Donato che ci chiama da Ferrara. Buonasera. Buonasera, saluto, vi ringrazio di avermi chiamato. Volevo soltanto rilevare i tanti discorsi che ha fatto il nostro mai troppo lodato Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Non ricordo se alla Camera o al Senato, comunque ieri parlando della crisi del nostro paese, ha fatto presente agli italiani e ai parlamentari che lo ascoltavano che nessuno meglio di lui poteva sapere quanto era importante la crisi di oggi per le aziende italiane, perché lui era proprietario di 3 aziende. Si sono sentiti dei lutti, neanche qualche parlamentare del PD che scuoteva la testa, compreso il ferrarese Dario Franceschini, si è visto molto chiaramente. Allora io volevo dire che bisognerebbe che tutti noi rivolgessimo un pensiero di solidarietà alle aziende in crisi del nostro Presidente del Consiglio. Lei è vagamente ironico? Soprattutto, no, assolutamente no. No, soprattutto i terremotati dell'Aquila, gli operai in cassa integrazione, i napoletani sepolti dai rifiuti, i pubblici dipendenti. Io sono un pubblico dipendente, che avranno gli stipendi bloccati, le retribuzioni bloccate fino al 31 dicembre 2014, e sicuramente i pubblici dipendenti, come tutti gli altri che hanno delle difficoltà economiche, avranno la certezza che il tasso di inflazione non mangerà i loro stipendi fino al 31 dicembre 2014. Non ha detto però esattamente questo Berlusconi, non ha detto che è preoccupato per le sue aziende, ha detto che le quotazioni di borsa anche delle sue aziende che... sì, sono sottostimate, e perché bla bla bla la borsa, come ha già ripetuto altre volte, è lontana dall'economia. Questo era un po' il concetto e lui lo ha riferito a quello che conosce meglio, cioè le sue aziende. La sua preoccupazione sì. Comunque mi pare che sia peregrina, voglio dire, nei confronti nel luogo in cui è stata espressa, insomma, ecco, solo questo mi permettevo. Va bene, grazie a Donato da Ferrara. Andiamo invece a Marco che ci chiama dalla provincia di Lecco. Buonasera, il cosiddetto, io lo chiamo cosiddetto nostro presidente, anche se io non me lo sento. Perché, perché cosiddetto? Perché secondo me è lì a prenderci in giro, ci sta solamente prendendo in giro lui, i suoi seguaci. E io ho sempre votato la Lega, ho ancora l'ideale della Lega, ma non la voto più la Lega finché non stanno facendo nulla. Cioè lei ha votato la Lega, però non... Ma io da diversi anni che non la voto, in questa legislatura non ho votato nessuno. E non la vota più finché è alleata di Berlusconi? Ma sì, sicuramente. Questo nodo che stanno facendo in questi anni qua non mi piace. Non è più la Lega, se chi ha votato la Lega 10-15 anni fa... Secondo me sono rimasti pochi fedeli a Di Bossi, i veri leghisti di 15 anni fa, perché non, il pensiero della Lega di 15 anni fa non è questo pensiero di come sta, si sta comportando. Ma di chi è colpa se la Lega sta andando nella direzione secondo lei sbagliata? Di Bossi? Ma credo di sì, perché a parte il fatto che secondo me negli ultimi anni ha sbagliato diversi passaggi la Lega, nel senso che io mi ricordo quando nel primo governo Berlusconi Bossi ha buttato giù il governo, e negli anni successivi andava in giro, sono andato a qualche suo comizio, sono andato anche a Pontina e tutto quanto, diceva chi vota Berlusconi è un italiota, cose del genere, ma ne ha dette, io ho detto questa cosa, ma ne ha dette tantissime altre contro Berlusconi. Poi di punto in bianco si è alleato prima in Regione Lombardia e poi a livello nazionale. E chi è che invece potrebbe portare avanti un discorso diverso nella Lega? Maroni? Si parla di questo dualismo o non lo so? Ma io ho visto che parecchia gente invalida dalla Lega si è allontanata, vedi Pagliarini. E dove vanno? Dove vanno? Altrove. Va bene. Ma io comunque non ho chiamato per questo, sì. Io ho chiamato che comunque ti stanno prendendo in giro. Ha fatto un discorso sia ieri che oggi di economia che ci sta prendendo in giro. Il problema attualmente, secondo me, è che questa legislatura, i politici di questa legislatura, destra e sinistra, dovrebbero andare tutti a casa e fare proprio una pulizia generale e ricominciare da capo. Noi abbiamo bisogno di gente prima giovane, non ottantenni, 77 o così, di gente giovane, e soprattutto... Soprattutto giovane, grazie. 19 e 29 la fermo qua perché... Abbiamo la borsa e poi dico questo, cari ascoltatori, sostenitori del governo Berlusconi e elettori e nonché insomma persone che sono state convinte anche dal discorso di ieri, non è che potete farci lo scherzo stasera di non intervenire perché sennò la trasmissione diventa monotona. Allora chiamateci all'824 0024, facciamo la borsa e poi torniamo tra un attimo. 19.34 minuti, cari ascoltatori, tra poco riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 0024. Prima però introduciamo un altro argomento che ci porta in Campania. Passano da 12 a 14 gli assessori della giunta regionale della Campania, una decisione che sarebbe giunta nella notte tra ieri e oggi. E allora si accende subito la lampadina rossa, allarme rosso, altri due assessori, altre due poltrone, altre spese, altri costi. Quale sarà il motivo per cui la giunta campana è cresciuta di due assessori? E allora noi abbiamo convocato Fulvio Martuscello, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Capogruppo del PDL in consiglio regionale. Martuscello, prima di tutto ci conferma che c'è questo aumento da 12 a 14 degli assessori? È un aumento di due assessori regionali che abbiamo varato a costo zero, nel senso che abbiamo budgetizzato la spesa, fermato i tetti di spesa, per cui gli assessori regionali che sono stati aumentati costeranno quanto costavano 12 assessori regionali. Che cos'è che avete fatto? Avete budgetizzato? Una parola? Che sì. La spesa per i 14 assessori regionali dovrà essere uguale a quella che era prevista per i 12 assessori regionali. Quindi verranno in qualche modo redistribuite le spese dei 12 esatto. E in 14. C'è un euro in più, tanto è vero che è una norma senza necessità di copertura finanziaria. Immagino che gli altri forse non saranno contentissimi perché gli toglierete qualcosa. Problemi loro. Dovranno stringersi. Era giusto, diciamo, si sta in 14 in maniera... nella tavola dove si stava prima in 12 praticamente. Esatto, era giusto ridistribuire in maniera più organica le deleghe e far coincidere il numero degli assessori con il numero delle aree di operatività della giunta regionale. Quindi naturalmente ci rendiamo conto che non sarebbe stata una operazione che... comprensibile da parte dei cittadini e quindi abbiamo immaginato di poter varare un provvedimento accompagnandolo appunto a una norma di spesa che prevede appunto un limite. I cosiddetti tetti di spesa, quindi non ci sarà un euro in più. Perché nella notte? Perché nella notte perché noi siamo stati convocati da due giorni, siamo impegnati a oltranza sulla manovra finanziaria, noi abbiamo avuto una serie di prescrizioni da parte del governo per tentare di rientrare nel debito della sanità e ieri abbiamo fatto una grandissima manovra finanziaria che non costa assolutamente ai cittadini ma che in qualche maniera taglia le spese inutili che vengono compiute nella sanità, abbiamo tagliato feste, sagre, tutto quello che non serve al territorio della Campania che ha bisogno invece di programmazione di interventi più generali e quindi siamo convocati da due giorni e da due notti naturalmente ad oltranza sul bilancio, sulla finanziaria, sulla riforma della sanità. E quali sono però? Nell'ordine del giorno c'era anche una modifica statutaria. Sì. Dopo di questo abbiamo fatto anche altri argomenti, quindi... Ma quali sono i due assessorati che entrano? Quali sono le tematiche? Forse in realtà noi abbiamo modificato la norma prevedendo che il presidente può avvalersi di un numero di assessori sino a 14. La norma precedente stabiliva che la avrete avuto in mente qualcosa di 12 assessori regionali. Sì, dico... Io spero e auspico che siano due donne, perché vuol dire, la giunta della Campania ha nell'esecutivo una sola donna, e quindi sarebbe corretto. Perché c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato sulle quote rosa che dice che la giunta Caldoro non ha abbastanza donne, quindi questa guardi, sarebbe... è un'abitudine direi non corretta, quella di fare le norme e poi magari di non rispettarle in pieno. Quindi se si fanno le norme bisogna rispettarle, e questo vale in generale, vale... per la giunta Caldoro, vale per la giunta Alemanno, vale per tutte le giunte d'Italia. Insomma, dire, se si scrive in un regolamento, in uno statuto, che ci deve essere un'equa rappresentanza delle donne, viva Dio, si deve fare un'equa rappresentanza delle donne, altrimenti se non la si vuole fare non bisogna scriverla. No, però la cosa che io non ho capito è, voi avete previsto questa possibilità, per diciamo questa delega a Caldoro di aumentare gli assessorati, però non avete ancora definito quali sono questi due nuovi assessorati. Perché lo statuto ha bisogno di due letture. Per cui praticamente oggi abbiamo fatto la prima lettura e dopo due mesi, dice la Costituzione, si può fare la seconda lettura e la norma quindi è operativa. Quindi in realtà questa è una questione procedurale, ma dal punto di vista proprio del contenuto di questi assessori, voi avrete già in mente cosa dovranno fare questi assessori, oppure è una cosa così, una previsione? Tenga conto che ci sono gli assessori che sono sovraccarichi, per cui per farne un esempio c'è l'assessore regionale ai trasporti, delega impegnativa, se pensa soltanto le risorse finanziarie che il CIPE ha sbloccato a favore dei trasporti in Campania, che è anche assessore alle attività produttive, quindi cumula su di sé due deleghe che sono insostenibili da parte del nostro assessore regionale. Quindi sarà uno spacchettamento di deleghe per alleggerire il carico di lavoro degli assessori. Esatto. Quindi naturalmente la condizione per varare questo provvedimento era quella che non sarebbe costato un euro, e quindi abbiamo immaginato appunto un tetto di spesa che è quello che è incidente con i 12 assessori regionali, quindi non ci sarà né un comandato in più, né un distaccato, né una segretaria in più, né un telefono in più, né un'auto in più, anzi qui in Campania le abbiamo totalmente abolite le auto blu, quindi figuriamoci. Avete tolto le auto blu, gli assessori? Abbiamo stabilito che il Consiglio regionale ha adottato un'auto di rappresentanza, e poi naturalmente abbiamo purtroppo molti assessori regionali sono sotto scorta, quindi abbiamo dato anche la benzina alle macchine della Polizia di Stato che svolgono questa attività di scorta. Altro non abbiamo fatto, perché naturalmente abbiamo tentato di invertire un po' la tendenza degli anni passati. Tenga conto che nella scorsa legislatura il centro-sinistra ha tentato di portare i consigli regionali da 60-80, noi abbiamo fatto le barricate e abbiamo vinto, evitando appunto che ci fossero 20 consigli regionali in più. Adesso sono rimasti 60. Sono rimasti 60, esatto, che è un numero direi adeguato rispetto alla popolazione della Campania, che è di oltre 6 milioni di abitanti. Senta, invece sulla questione di cui parlava anche lei dei rifiuti, come sta andando adesso, lei è capogruppo del PDL, guardi, il coordinamento col sindaco, c'è una novità, che ieri il comune ha perso al TAR sulla questione del termovalorizzatore. Lei sa che noi abbiamo bisogno di un termovalorizzatore per completare il ciclo dei rifiuti. Il comune, attraverso il sindaco De Magistris, è ricorso al TAR contro l'avvio della procedura di gara per costruire il termovalorizzatore, e il TAR ha dato torto al comune. Quindi se non ci saranno opposizioni in Consiglio di Stato, se il fronte del no non si ricompatterà, se non ricominceranno le marce dei Verdi che cercheranno di fermare la costruzione del termovalorizzatore, Napoli finalmente potrà avere un ciclo di rifiuti compiuto, avendo la possibilità di bruciare ciò che rifiuta. Naturalmente in questo ciclo è obbligatorio avere anche le discariche, perché penso che l'Italia intera si è scocciata di soccorrere ogni volta la Campania, di prendere i rifiuti della Campania, di venire in soccorso dei campani. I campani devono imparare ad avere le discariche, ed è una cosa direi che è fondamentale per far funzionare un ciclo dei rifiuti. Staremo a vedere, questo speriamo che siano buone notizie. Però una cosa ancora gliela voglio chiedere sugli assessori, perché insomma non mi ha convinto del tutto su un aspetto, Martuscello, cioè i nomi degli assessori si sanno già, dei futuri assessori, chi sono i candidati? Perché no, guardi, noi abbiamo per fortuna il consiglio regionale più rosa d'Italia, perché abbiamo una legge regionale che introdusse la doppia preferenza, quindi noi potremmo votare un uomo e una donna ai cittadini della Campania, quindi abbiamo, pensi, 14 consigliere regionali donne su 60. Quindi io auspico che il presidente Caldoro possa scegliere gli assessori regionali che entreranno in giunta tra questa platea di ragazze, di donne, di professioniste, di insegnanti straordinariamente preparate, sì, veramente rappresentative, perché elette con la preferenza. Sì. Insomma, lei ci garantisce che non c'era nessuno da piazzare, per cui sono stati creati queste cose che a volte sentono dire. Insomma. Abbiamo fatto anche una bella legge, guardi, che evita la nomina dei parenti da parte della giunta regionale, quindi meno male. Abbiamo fatto una bella legge che spazza via la possibilità per la giunta regionale di poter nominare parenti, figli di, fratelli di, sorelle di, eccetera eccetera. Va bene, grazie, staremo a vedere allora quando saranno poi nominati questi assessori. Grazie intanto a presto, grazie. Fulvio Martuscello, capogruppo del PDL in consiglio regionale in Campania. 19:42 minuti, riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 00 24. Da dove riprendiamo? Forse da Fausto, che chiama da Milano. Buonasera. Sì, buonasera, sono Fausto. Grazie innanzitutto e tanti auguri a tutti. Il mio intervento era un po' controcorrente di come stanno andando le telefonate negli ultimi tempi. Meno male, vada. Ecco, volevo dire, ma anche se noi dovessimo azzerare tutti gli stipendi dei parlamentari, forse l'economia migliora? Io credo di no. Quindi questi sono discorsi abbastanza populisti. Sì, no, è vero che però è una questione, come si sente dire da più parti, anche di dare il buon esempio. Nel momento in cui si taglia tutto, perché siamo davvero nella condizione di dover tagliare per l'enorme debito pubblico che c'è in Italia, viene normale, no, pensare che il buon esempio debba arrivare anche dalla classe politica, dai parlamentari, il governo, eccetera, o no? Ma certamente, ma guardi, io ho 52 anni e mi intendo un po' di politica da quando ero ragazzino, quindi sono 40 anni che sento sempre i soliti discorsi della gente, basta, questi politici guadagnano troppo, hanno troppo. Io mi sento di appoggiare a pieno Cruciani quando dice i politici è lo specchio della società italiana nostra. Le faccio un esempio pratico, se terra a terra, strada a strada forse. Io sono stato in America, se lei va in strada in America con la macchina, se c'è il limite di velocità di 20 miglia, tutti rispettano quel limite di velocità. Lei provi a vedere se in Italia a un 50 all'ora c'è una macchina che vada a 50 all'ora. Non c'è nessuno. Allora tutta questa gente che critica... Non è vero, non è vero, la smentisco subito. Come non c'è gente che rispetta il limite di velocità? Io la multa non la voglio prendere e cerco di rispettarlo il limite. Ci provo, poi magari qualche volta va male, ma lei è così convinto che sono tutti, non so come dire, tutti... Come li definirebbe dal suo punto di vista gli italiani? Tutti degli... No, io non è che voglio dire tutti, ma la stragrande maggioranza, buona parte, non ha rispetto del prossimo. E quindi ovviamente noi cosa ci possiamo aspettare dai politici? No, è vero che i politici sono sicuramente lo specchio dell'Italia, infatti non sono tutti uguali, nemmeno i politici, come non sono tutti uguali gli italiani. Su questo però mi consenta, è fin troppo facile, no, dirlo. Come si fa a dire che sono tutti uguali? Come è fin troppo facile io dire... E lei non siamo mica uguali, non so come lei, ma... Certamente, ma se io dovessi andare, ripeto, se io dovessi andare a 50 all'ora su una strada urbana, no? Mi suonerebbero dietro. Arriva tardi. Non solo arrivo tardi. E poi un'altra cosa volevo dire all'intervento, innanzitutto l'ultimo intervento della Campania. Martuscello del PDL. Martuscello, sì. Ha fatto un intervento eccezionale, secondo me, no? Quindi ha spiegato anche abbastanza bene tutto quello che doveva dire. E dell'ultimo ascoltatore, mi dispiace per lui, però la Lega da 10 anni a questa parte, dal 4-5% è salita al 10-12, quindi un in meno forse. Gli stessi voti che però aveva nel 94, mi scusi, perché nel 94 la Lega aveva il 10,4%, no? Poi mi arriveranno gli sms, no, ho sbagliato, mi pare, e adesso sì. Alle ultime elezioni credo che avesse il 10%. Sì, ma in effetti nel 94 non è cambiata molto, sì. fece saltare il governo, però nel 94 e la Lega, e quindi subì anche una forte depressione grazie a quella mossa. No, ma io volevo solo dire che i voti della Lega non sono molto cambiati in questi anni, cioè sono un po' aumentati, poi un po' ridiminuiti, ma attorno a quella percentuale. Comunque non importa adesso fare i conti sulle percentuali della Lega. Voleva continuare? No, solo questo volevo dire solo quello che ho detto, nel senso va bene, grazie. Che voleva andare contro a tutte. Ah, meno male, perché sì, in effetti stava diventando un po' monotonina la trasmissione, sicuramente. Grazie Fausto. Scendiamo geograficamente, risaliamo la lista. Luigi da Roma, buonasera. Buonasera dottore. Allora, io vorrei fare una piccola precisazione, poi espongo alcuni miei concetti e non sarò molto lungo. Allora, vorrei ricollegarmi a quell'intervento di quel signore che si è presentato dicendo che lui non si schierava, non era schierato, e poi ha fatto un elogio berlusconiano. Questo è molto triste, perché è bello essere coerenti. No, io sono di sinistra, io sono comunista, voglio dire, quindi è già molto critico quello, cioè dimostra pochezza. Poi contemporaneamente vorrei rispondere a lui e a Galan. Cioè, allora, lei non piace chi dice che non si schiera avendo un'idea detto, precisa. Fra un poco, io ho fatto questa premessa, poi dirò di che partito sono io e alcuni concetti. Allora io faccio una considerazione e rispondo a lui e all'onorevole Galan. Cosa ha fatto? Io faccio un discorso oggettivo, cioè lasciamo stare la ideologia, poi di ideologia parlo fra un attimo, di ideologie politiche. Cosa questo governo ha fatto? Oggettivamente lasciamo stare, cosa ha fatto in 10 anni, in 12 anni, anche quando era Forza Italia? Solo parole, perché non lo dico io, questi signori dovrebbero andare un po' all'ospedale in giro e fare con i medici, vedere il taglio che c'è stato, dovrebbero andare nelle scuole a vedere cosa c'è stato nelle scuole, dovrebbero parlare con la mamma di un bambino disabile, che non ci sono più le persone che li accudiscono. Io non faccio, non sono uno stipendio, sono un agente di commercio nel settore dell'abbigliamento, quindi faccio 6.000 chilometri all'anno, quindi il mio è un settore privatissimo, quindi non posso dire ma tu, quindi voglio dire, dovrebbero fare questo giro e dovrebbero analizzare. Guarda che mi risponde, richiamasse quel signore, dicesse Berlusconi ha fatto questo, anche Galan, quando Forza Italia faceva Forza Italia, benissimo, che cosa, lui un grande affabulatore, Berlusconi un grande affabulatore, grandi parole, non metteremo mai le mani nelle tasche degli italiani, e alla fine non ci ha messo le mani, i piedi, il naso, ci ha messo tutto. Adesso parlo di me, ho sentito quegli sms, comunista o non comunista, io sono un comunista, ma un comunista di oggi, un comunista evoluto. Che significa comunista evoluto? Che non dico che la vita abbia dato un frutto, non dico scusi, che, ma il comunista evoluto non sì, è male. Sì, un comunista evoluto, sì. Ma io sì, ma io sono orgoglioso, perché chiaramente sono inserito in un contesto attuale. Io sono un comunista del 2011, non sono un comunista di 100 anni fa. Chiaramente i concetti sono quelli, ma oggi, quando è nato il comunismo, con Carlo Marx, con Lenin, cioè, c'erano delle realtà storiche che oggi sono cambiate. Quindi quando questo, il comunista ci si può ragionare, sono delle persone, non voglio dire ottusa, ma chiaramente poco aperte, perché un comunista può essere anche oggi. Secondo me la crisi della sinistra sta proprio qua, non avere più un'identità. Io sono un comunista che vivo oggi. Vabbè, l'ha detto 40 volte che è un comunista adesso. Sì, però va bene. Grazie Luigi. Però no, una cosa ancora. Lei però non fa 6.000 chilometri all'anno. Al mese. Mi scusi, perché sembravano pochi come agente di commercio. Quindi sono emozionato di parlare con voi, chiaramente. Grazie. Buona serata, Luigi. Riprendiamo da Napoli. Francesco, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, innanzitutto volevo dire all'ascoltatore di prima che se va avanti col progetto del Partito Comunista Evoluto potrebbe avere addirittura più successo della sinistra italiana, estremista, insomma, come viene definita. Sì, bisognerebbe vedere un po' i contorni di questo Partito Comunista Evoluto, sì, perché siamo rimasti un po' sul vago, insomma, sull'enunciato. Sì, però, sì. Io direi a sinistra c'è spazio per tutti ormai in Italia, quindi va bene. Poi, per inciso, a Martuscello avrei chiesto volentieri l'aumento dei carichi di lavoro che ha reso necessario l'introduzione di 2 assessori, in particolare la regione Campania, dove lo ha riscontrato negli ultimi anni? Cioè, io lavoro in un'azienda, quando aumentano i fatturati, aumentano i carichi di lavoro, si consolida un fatturato più alto, si amplia l'organico. Ora, io non so quanto sia aumentato il carico di lavoro degli assessori, anche perché è stato molto vago, dice. Quindi questi 2 assessori dovrebbero essere jolly, che dovrebbero andare un po' ad alleggerire i vari assessorati. Ma questo poi purtroppo lo scopriremo. La difesa anche di Martuscello sulle sue domande era interessante, perché chiaramente ora in questo periodo in cui i costi economici della politica sono sotto i riflettori si risponde solo da quel punto di vista, ma i costi della politica sono anche costi procedurali, costi di organizzazione. una politica deve essere non costosa, ma il costo si secondo me si misura anche sull'efficacia. Però questo poi, le ripeto, purtroppo noi campani lo vedremo nei prossimi mesi. Il mio intervento era relativo però in particolare all'intervento di Berlusconi alla Camera e a, diciamo, le conseguenze. Cioè, lui poi successivamente in conferenza stampa va a dichiarare che i mercati, così come poi ha fatto anche Alfano nell'intervento, sono, come dire, sovrastimati rispetto alle loro diciamo, influenze sulla vita politica. Addirittura ha detto che la storia dell'orologio, com'era, che vanno bene due volte al giorno, eccetera. Allora perché abbiamo fatto un intervento a mercati chiusi? Allora perché abbiamo fatto un intervento per fermare la speculazione dei mercati? Cioè, a me sembra un po' questa maggioranza, questo governo, questa classe politica, definiamola come vogliamo, un po' al totale sbando. Cioè, abbiamo visto nei mesi scorsi poche teste pensanti di questo governo e di questa maggioranza dedicate esclusivamente a fare un determinato tipo di lavoro sulle leggi, come sono definite dalla stampa di persona. Questo però è stato già detto anche ieri, quindi adesso non su questo mi fermerei, perché sennò si ripetono un po' certi concetti. Mi perdonerà, ma facciamo qualche passo in avanti se possibile. Adesso proviamo a farlo, qualche passo in avanti, per esempio con Pablo che ci chiama da Alessandria. Buonasera. Buonasera. Prego. Spero che due assessori che hanno preso in più portino almeno l'accendino per bruciare i rifiuti. Sì. Mi intervento era riguardo al bilancio che ho sentito discutere delle Camere, no? Che in pratica c'è stato qualche politico che aveva portato i dati che in pratica loro prendono meno di quelli fuori, cioè di quelli della Germania, dalla Francia, e viceversa invece i giornalisti dicono no, non è vero, voi prendete di più. Il problema non è se prendono di più o di meno, il problema è quanto prendono in base a quello che c'è. Cioè in base al tenore di vita, lei dice? No, io... Cioè, in base a quello che c'è, cosa vuol dire allora? Tedesco, se il politico tedesco prende 1000 euro... Sì. Cassa ce n'è 1.500, sì. Rispetto al debito italiano, che non è quello tedesco, che è molto più alto, quindi le dice che bisogna fare sacrifici maggiori. Alla possibilità che la cassa dello Stato può dargli, cioè, perché se loro prendono 800, che è vero che è meno di 1.000 del tedesco, però se in cassa ce n'è 500, te ne stai prendendo 300 di più. Certo, ha ragione, è proprio di quello di cui si sta parlando, cioè della necessità che anche la classe politica dia il buon esempio quando si parla di tagli, e di tagli si parla perché proprio per quello che diceva lei, perché l'Italia ha questo enorme debito pubblico, non c'è niente da fare, insomma, da qualche parte bisognerà pur prenderli. Parliamo con Carlo a questo punto, che ci chiama da Milano. Buonasera, scusi, io sì. Sarò, mi auguro, molto breve, perché sono in automobile sull'autostrada. Dunque, volevo dirle, volevo fare una domanda. Se lei, come la pensa lei, nel caso ci fosse una piccola, una media o una grande società che primo anno chiude in rosso, il secondo anno chiude in rosso, il terzo anno, per evitare la bancarotta o evitare il fallimento, che precauzione prenderebbe? Io credo che la precauzione principe è quella di prendere il corpo dirigenziale, dargli un calcio in culo e cacciarli via. Sono gli incapaci, sì. Questo in piccolo. In grande lo riportiamo sul governo italiano. Guarda che non è che succeda sempre così, non è che l'economia, l'azienda non va bene, un calcio nel sedere. No, qui c'è l'incapacità totale. Non mi dica che. Ma lei di cosa sta parlando? Dei politici sempre? Sta parlando sto parlando della classe politica dirigente italiana che ci ha portato al limite della bancarotta, al limite della catastrofe, perché questo è vero, siamo al di sotto della beccia, anche se non lo si vuol dire. Allora qui c'è l'incapacità. Berlusconi sarà un bravo. La sente questa musichetta sotto che sale? Sì. È la musichetta terribile, perché siamo a ridosso della pausa, dobbiamo fermarci, vediamo se proseguiamo dopo con questo suo intervento, una pausa. Alle 20 in punto rientriamo con i titoli del TG1. Wall Street e il debito americano trascinano i mercati in un altro tonfo. Milano perde oltre 5 punti, male anche Parigi, Londra e Francoforte. Berlusconi e le parti sociali, entro settembre patto per la crescita, dalla crisi si esce insieme. Opposizioni, governo sottovaluta situazione, serve svolta. Romani, abbiamo dato risposte al mondo dell'economia. Marcegaglia, fare in fretta, Camusso, non ho visto un clima di emergenza. Melania, il marito si trincera nel silenzio, caccia al segreto inconfessabile che scatenò l'omicidio, inquirenti nella caserma di Parolisi. L'omicidio di Sara Scazzi, da oggi Cosima e Sabrina in carcere nella stessa cella, a fine agosto compariranno di nuovo davanti al giudice. Nepotismo nelle università italiane, un ricercatore ha calcolato i cognomi identici fra i professori, sono più di 4.500 su 61.000, quasi sempre non si tratta di semplice omonimia. Una formula per individuare il nepotismo nelle università, credo, ma non solo, non è male questa idea di questo ricercatore, chissà se è in qualche modo davvero efficace, se funziona, sarebbe davvero curioso applicarla. E, chi abbiamo? Dunque abbiamo gli ascoltatori che sono in linea all'824 0024 e poi più tardi forse un ospite col quale cercheremo di fare il punto in tema di sondaggi politici, naturalmente sul gradimento del governo e del Premier, se riusciamo a contattarla. Patrizia dalla provincia di Monza, buonasera. Buonasera. Prego. Abbassi la radio perché sentiamo altrimenti il ritorno. Prego. Aspetti allora che la bassi. Sì. Ecco. Allora, io volevo dire questo. Volevo rispondere soprattutto al signore Veneto che ha chiamato dicendo che Proverino, il Presidente del Consiglio, se parla, parla e hanno da dire, se non parla. Vorrei precisare che lui ha il dovere di parlare perché lo paghiamo per questo, primo. Seconda cosa, quando parla non dovrebbe dire stupidaggini, perché nel momento in cui lui dice l'orologio è rotto, eccetera, eccetera, non si rende conto che se noi raggiungiamo il 7% di interesse da pagare, noi il nostro debito pubblico ci avvitiamo, non lo paghiamo più e finiamo come la Grecia. Perciò prima di dire stupidaggini sui mercati, eccetera, eccetera, che suo papà sarà stato anche esperto, ma lui ho qualche dubbio, e soprattutto prima di fare lo sponsor delle sue aziende dicendo comperate i titoli delle mie aziende, sarà così bravo perché non ha fatto l'imprenditore anziché rompere le scatole a noi al governo. Grazie Patrizia dalla provincia di Monza. Allora, magari gli facciamo risentire questo Berlusconi, visto che l'abbiamo sentito nella prima parte un po' di tempo fa, sull'orologio rotto, le borse come l'orologio rotto. I mercati agiscono per ragioni proprie che sono distanti sia dalla realtà economica che dalla politica. E questo io lo so, sono figlio di un padre che aveva una grande esperienza di borsa. Mi diceva della filosofia e delle ragioni che muovono le borse, che sono normalmente in contrasto con quelle che muovono l'economia. Mi ricordo una frase che diceva: le borse sono come un orologio rotto, due volte al giorno danno l'ora esatta, ma per tutto il resto l'ora non è quella vera. E io credo che questo tutti lo dovrebbero sapere. Eccoci qua, e poi l'ora che hanno segnato oggi le borse è stata quella di un calo del 16% a Piazza Affari sul FTSE MIB dopo un giallo durato, non ricordo più, forse un'ora, poco più di un'ora, sulla mancata quotazione dell'indice milanese, ma anche di quello di Parigi. Una giornata oggi decisamente negativa per le borse in Europa. Ascoltatori ancora, sentiamo Massimiliano da Novara, buonasera. Buonasera, mi avete preso nel periodo peggiore, sono in un tunnel di 5 km, spero non cada la linea. Volevo dire questo, riguardo un po' all'intervento del nostro Presidente. Io da un certo punto di vista, questo mi rende quasi gioioso dirlo, forse la prima volta, non gli do del tutto torto quando dice che sono dei mercati finanziari. Cioè lei è la prima volta che dà ragione a Berlusconi, non ho capito. Sì, nella mia vita, sì. Io gli do ragione nel senso che secondo me i mercati finanziari sono realmente distanti dalla realtà e sono spesso un mondo parallelo, cioè il prezzo dell'azione di un'azienda non dipende quasi mai dal suo andamento, ma spesso è influenzato da speculazioni, da chi vende, da chi compra, da grandi flussi di denaro che entrano ed escono. Però è anche vero che purtroppo il mondo reale viene influenzato dalla finanza, molto più di quanto la finanza venga influenzata forse dal mondo reale. E quindi io credo, è un'idea che avevo da prima, non solo da ora, che il mercato, il mondo della finanza debba essere ripulito da una serie di prodotti che fanno sì che il mondo della finanza possa in qualche modo influenzare in modo negativo il mondo reale. Sì, c'era stata un po' di attesa, di speranza subito dopo la crisi, qualche anno fa, due o tre anni fa, quando si parlava di anche Obama voleva intervenire per ripulire la finanza da tutta una serie di operazioni, di prodotti considerati troppo speculativi, troppo frenetici, però poi non lo so, adesso non vorrei dare un giudizio, come me ne intendo nemmeno io, però mi sembra che non si sia fatto tantissimo. Sì, assolutamente c'era... no, cioè noi ci svegliamo, ultimamente ci svegliamo la mattina e non ha, la prima cosa che ci aspettiamo è che Moody's dica qualcosa. Moody's ha come principale cliente le banche, e il venerdì prima del crack di dava triplo a Brothers. Mi sa che il tunnel del signore qua sta cominciando a farsi sentire, non lo sentiamo più benissimo. E allora invece sentiamo qualche altro ascoltatore, ma tra un attimo facciamo prima i titoli della 7 e poi di nuovo con gli ascoltatori. La giornata da incubo delle borse, Milano apre in positivo, vira presto in negativo, va in tilt, si ferma quasi un'ora in chiusura. Alla fine chiude al 5,16% in meno, ma come tutte le borse europee che sono andate male, stop forzati e poi indici pesantemente negativi per i listini di Parigi, Amsterdam, Lisbona, Bruxelles, profondo rosso. Ora ovviamente la paura è che la crisi possa travolgere tutta l'Europa. Il governatore della Banca Centrale Europea Trichet ammonisce l'Italia, ma anche gli altri paesi, servono manovre aggiuntive, riforme strutturali. Annuncia che la Banca Centrale immetterà nuova liquidità per contrastare la crisi. In una giornata bruciati 173 miliardi di euro. Voci di un vertice d'emergenza. Incontro a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali, le firmatarie di quel clamoroso documento che chiedeva discontinuità. Berlusconi prosegue la linea della fiducia. Entro settembre patto complessivo per la crescita. La crisi si può uscire solo con la partecipazione di tutti. Ma le parti sociali insistono, bisogna agire subito. Bersani insiste, esecutivo a casa, sulla stessa linea anche Di Pietro, che propone una contromanovra da 60 miliardi in tre anni. Si smarca ancora Casini, basta con le litanie delle dimissioni. Visto che il governo c'è, governi, noi pronti a collaborare. E si riaccende anche la tensione tra Lega e Quirinale, questa volta la polemica è sui costi. La Presidenza della Repubblica risponde all'intervento di ieri del capogruppo leghista Reguzzoni, che aveva parlato di 40 vetture a disposizione di un uomo solo, il Presidente della Repubblica. Sono solo 3, scrive in un comunicato il Col. Una forzatura giornalistica, mai detto quelle parole. Il ministro dell'Economia Tremonti ha spiegato così in gran segreto al procuratore capo di Roma Ferrara quanto scritto da un quotidiano circa la sua presunta, circa una presunta attività di spionaggio nei suoi confronti. E Tremonti è stato ascoltato il 29 luglio a Piazzale Clodio a Roma. È giallo per il razzo lanciato contro la fregata italiana ieri mattina al largo delle coste libiche, ma c'è una nuova tragedia, nelle ultime ore emerge, soccorso in acque libiche, un barcone con 300 disperati, ma ci sarebbero decine di cadaveri in mare. Pure io mi diverto molto quando è il caso a dire mio nonno diceva, non è vero ma fa scena, mio nonno passa per un filosofo, così Gio al 349-238-6666. In effetti è come quando uno dice me l'ha detto mio cugino, me l'ha detto mio nonno, me lo dice a mio padre, così Berlusconi ha citato il padre, certo, sicuramente Berlusconi con la retorica e con l'arte di parlare, di comunicare, ci sa fare. 20 11 824 0024, ancora qualche minuto in questo spicchio di trasmissione per i vostri interventi. Maurizio da Milano, buonasera. Buonasera, sì, niente, volevo solo dare una lettura un po' diversa a questi, a questo problema della crisi finanziaria che sta avvenendo in questo periodo. Intanto volevo solo dire che non è appunto solo adesso che sta avvenendo, ma è già capitata qualche anno fa, e in particolare però mi fa pensare il fatto che, bene o male, cioè la domanda mi pongo è: chi è che compra questo debito pubblico, chi è che compra le azioni delle aziende sia italiane che europee? Perché in realtà per me non è un problema solo italiano, ma è, diciamo, europeo, ma anche a livello mondiale. E negli ultimi anni magari nessuno ricorda che ci sono alcuni paesi che sono diventate le vere e proprie potenze economiche, nel senso, faccio esempio, la Cina, l'India, il Brasile, non lo so, il Sudafrica, e questi paesi negli ultimi anni hanno acquisito un certo potere economico che gli permette anche di comprare il debito pubblico di certi paesi o le azioni di questi paesi. Cioè, il fatto che questa crisi coinvolga contemporaneamente quasi tutta l'Europa, compreso anche gli Stati Uniti, credo non sia un caso. Cioè, non voglio in questo né difendere né sostenere il Presidente del Consiglio, la sua politica economica, credo che probabilmente il problema della crisi finanziaria attuale vada un po' al di là del semplice debito pubblico dell'Italia, perché il debito pubblico c'era anche 2 o 3 anni fa, però la borsa ha raggiunto dei picchi che erano immaginabili 15 anni fa. Invece, in realtà, cioè, lei dice che la cosa riguarda, cioè la questione economica va a comprendere anche adesso chi detiene il debito pubblico dell'Italia. Però questo credo che sia sempre esistito, questo problema qua, non è che sì, è di oggi. Oggi sono entrati in scena, come dice lei, è vero, la Cina, cioè, per esempio. Sì. Giusto per fare un esempio, ma ce ne sarebbero tantissimi, magari gli altri ascoltatori ne sanno altri. Quando il francese, di cui non ricordo il nome, il presidente del Fondo Monetario Internazionale, ha avuto lo scandalo che ha avuto a Manhattan, Stroscan. Esattamente, è stato dimesso immediatamente. Ho letto sul Corriere della Sera che si sono fatti avanti l'India, il Messico e credo anche il Brasile e il Sudafrica, dicendo: adesso mettiamo uno dei nostri. Ovviamente il vecchio mondo ha subito risposto: no, no, assolutamente no. Infatti è passata la signora francese, anche lei non ricordo il nome, al posto di Lagarde. Esattamente, quindi, cioè, voglio dire, faccio la suggeritore. Ma ricordo anche qualche anno fa, quando iniziò la prima crisi finanziaria anche in Italia, che comunque fu europea, lo stesso Presidente del Consiglio, ma anche altri politici, ricordarono che esistono dei fondi sovrani che fanno capo riferimento ad alcuni paesi che negli ultimi 30-40 anni, attraverso le materie prime, il petrolio e altre cose, ma anche attraverso le loro imprese, sono diventati dei veri e propri imperi economici, che questi fondi possono realmente, a un certo punto della storia, decidere anche di mettere in crisi l'economia di un vecchio mondo che fino ad oggi è quello che, bene o male, al G7. Sì, sì, ho capito quello che lei dice, però Maurizio, vede, c'è una questione che è così come lei dice, però non possiamo farci nulla. Cioè, se noi abbiamo questo debito e qualcuno ce lo finanzia acquistando titoli del debito pubblico, dobbiamo solo che ringraziarlo, perché se non ce lo compra più, non ce lo finanzia più, e allora succede davvero il patatrac. Quindi non vedo cosa si possa fare, cioè si possono fare tantissime cose, però la considerazione che lei fa è una considerazione un po' così, che la palissiana, non vedo che sbocchi possa avere. Non so se lei invece Scusi, sì. Proprio là, nel senso che, come ha detto lei, giustamente anch'io ringrazio chi ce lo compra, però questo chi ce lo compra può anche dire: signori, o ci date più spazio a livello mondiale, ad esempio nel G8 o nel gestire alcuni organismi internazionali tipo il Fondo Monetario, oppure noi smettiamo di comprarvi il debito pubblico indipendentemente. Quindi lei dice, per esempio, la decisione di avere messo Christine Lagarde, la francese, al Fondo Monetario potrebbe essere stato un prezzo troppo alto per i paesi occidentali, che invece avrebbero dovuto concedere qualcosa di più ai paesi emergenti? Quello era solo un esempio, magari sì. Ci sono altri che avvengono a livello di decisioni internazionali, sì, no? Le faccio un altro esempio, poi la lascio per non disturbare troppo. Sì. Qualche anno fa, lessi sempre sul Corriere, non mi ricordo esattamente quanti anni fa, che l'Iran, che è uno dei 7 produttori mondiali di petrolio, aveva smesso ufficialmente di fare le contrattazioni in dollari e aveva iniziato a farle in euro. Mi pare sia successo 3 o 4 anni fa, cioè qualche mese prima, qualche anno prima, proprio prima della prima crisi finanziaria mondiale. Cioè, cosa voglio dire? Io, cioè, sono notizie, a volte si leggono in terza pagina, un trafiletto, magari sui Sole 24 Ore, o nell'ottava pagina, però magari sono quelle notizie che, se uno poi ci riflette a posteriori, può dire: ma che trasformare le proprie contrattazioni a livello mondiale di vendita e compravendita del petrolio da dollari in euro, che cosa avrà voluto dire per l'economia degli Stati Uniti, per esempio, o per tutti quei paesi che ancora contrattano in dollari? Cioè, sono domande magari che uno a volte si pone, e quindi alla fine dice: ma sarà che alla fine c'è un cerchio che si chiude, e che magari, le faccio un altro piccolo esempio e poi chiudo. Cioè, mi sembra, con tutto il rispetto per la persona, per la, insomma, la caratteristica politica, cioè, ma che un Presidente del Consiglio stringe gli accordi di pace con un leader come Gheddafi e dopo 2 anni partecipa ad una coalizione per bombardarlo. Cioè, mi sembrano cose un po' fuori dal mondo, che non si sta muovendo qualcosa, ripeto, molto al di sotto, e magari noi ovviamente non sappiamo o non ci fanno sapere, e che quindi questi fondi in qualche modo, e poi comprendono anche la Russia, comprendono il Venezuela, comprendono, insomma, non lo so, stiamo un po' assestando i loro movimenti, ecco. questo è un, perché ripeto, il debito pubblico è sempre esistito. Sì, sì, abbiamo capito. Grazie Maurizio. Arrivederci. C'è la notizia, un atterraggio d'emergenza di un aereo Ryanair a Ciampino, attimi di paura, ma non è successo nulla, alle 19.05 un aereo Ryanair è atterrato appunto a Ciampino, però tutto bene. Facciamo il traffico, rientriamo tra un attimo per l'ultima parte con i vostri interventi. Paolo da Massa, buonasera e benvenuto, prego. Sì, buonasera, grazie prima di tutto. Io volevo dire, riferendomi a una frase che aveva detto Kennedy, che molto spesso bisognerebbe pensare a quello che noi dovremmo fare per il nostro paese piuttosto che il nostro paese faccia qualcosa per noi. Beh, da questo punto di vista credo che i nostri politici di tutto l'arco costituzionale abbiano fatto poco per il nostro paese, quindi hanno pensato, secondo me, molto più per loro che per il paese. Se proprio analizzo il livello del debito pubblico che abbiamo, perché non c'è stato un momento nella storia del dopoguerra dove il debito pubblico italiano sia stato sotto controllo. Quindi io credo che loro avrebbero dovuto fare molto per il nostro paese e hanno fatto poco. Quello che cercano, secondo me, invece è una struttura di potere. Non vanno là tanto a governare per fare delle cose per noi italiani, ma cercano delle strutture che poi in definitiva portano qualcosa agli omini che gli stanno intorno. È una filosofia perdente, è una filosofia che sta dando i risultati che ci meritiamo, perché comunque abbiamo il governo che ci meritiamo, come qualcuno ha detto prima negli interventi precedenti. Bisognerebbe che questa filosofia adesso cambiasse, diventassimo un paese moderno come tutto sommato può essere la Germania, più orientato ai fatti interni dei propri cittadini per farli stare bene. Poi dopo i politici possono stare bene anche loro, ma in primis ci facciano stare bene noi facendo delle scelte che sono coraggiose e opportune. Per esempio sviluppare il settore della cultura, preparare delle persone che siano all'altezza della situazione e non farle scappare all'estero ma farle lavorare in Italia. Questo sarebbe un primo passo. Grazie, grazie. C'è una notizia tra l'altro che riguarda il famoso guasto tecnico alla borsa di oggi a Piazza Affari. Allora c'è una nota credo ufficiale della Borsa Italiana che dice che il guasto era un guasto tecnico, ritardi nella distribuzione dei dati attraverso alcuni canali di informativa. Questa è la spiegazione ufficiale della Borsa Italiana al guasto tecnico che ha impedito di calcolare l'indice FTSE MIB a partire dalle 17 di oggi come normalmente. Poi la chiusura è stata del -5,16%. Allora andiamo da un altro ascoltatore, Claudio da Roma, buonasera. Buonasera, sono io? È lei, sì. Sì, grazie. Noi siamo noi, prego. Senta, questa sera l'argomento principe verte sulla crisi economica, ma io vorrei invece parlare un attimo dell'intervento del signor Diliberto. Sì. Il quale ha confessato di aver fatto 15 anni la politica, si è preso per 15 anni il suo bravo stipendio che sappiamo quanto essere. Poi si è preso 150.000 euro di liquidazione e poi c'è il suo bel vitalizio che poi andrà a lui, poi quando fra 100 anni morirà lui andrà ai suoi eredi, alla sua moglie, eccetera. Voglio dire, poi c'è qualcuno che ancora confessa che la politica non è un affare, perché voglio dire, se lei intervista qualsiasi politico dice che hanno lasciato, si sono votati alla politica così come se fossero una vocazione, come se fossero dei frati francescani oppure Medici Senza Frontiere, hanno lasciato alle loro spalle attività molto più lucrose, ma io dico più lucrose di questa, vorrei sapere dove esistono. A onor del vero bisogna dire, ricordare che Diliberto ha detto, io non ho elementi per valutare la veridicità di questa informazione, che i 150.000 euro di liquidazione, quelli almeno l'ha investito in un progetto, diciamo così, a carattere pubblico, una biblioteca per studenti universitari, quindi non una cosa lucrosa, però non lo so. Fosse vero sarebbe incopiabile. Ha detto così. Però voglio dire, come sì. Diliberto ne esistono altri centinaia e centinaia di individui che fanno politica e si trovano nelle sue stesse condizioni. Questa è l'Italia, le parlo da uomo della strada, capisce? Quindi tutto qua è un commento. Va bene, grazie. Che voglio fare. Grazie a lei. Francesco dalla provincia di Salerno, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Prego. Io volevo intervenire in questa trasmissione perché volevo puntualizzare alcune cose. Innanzitutto, mai abbiamo avuto un governo così longevo, con il nostro premier che è il numero uno della Repubblica, diciamo così, da quando esiste la Repubblica. E poi volevo dire, in merito a tutte queste dichiarazioni che sono state fatte dai radioascoltatori, noi non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo guardare anche dietro di noi, la Grecia, il Portogallo, che hanno fatto questa brutta fine, purtroppo. noi ci dobbiamo guardare dentro a questi problemi. Non possiamo guardare alla Germania, perché noi siamo italiani, non siamo tedeschi. Cioè noi siamo più vicini ai greci, lei dice. Io sono un pubblico dipendente. Sì. Noi a Brunetta gli dobbiamo portare i ceri, perché Brunetta ha salvato l'Italia per certi versi. L'assenteismo nei comuni, nelle province, in altri luoghi. Lui l'ha debellato. Lei è un dipendente pubblico, diceva? Sì, un dipendente del comune. E dove? In che comune, se posso? Il mio comune, a San Valentino Torio, in provincia di Salerno. E per esempio lì che c'è meno assenteismo adesso? Ma qua in verità il nostro comune non è un comune piccolo, non ne abbiamo mai avuto, ma in altri luoghi, e si sanno, negli ospedali, nelle cose. Altrove, dobbiamo sempre, ringraziare sempre. Brunetta per questa azione che ha fatto, perché i dati gli danno ragione. C'è stato un calo nettissimo in merito a questa cosa. I giorni di malattia, tutte queste cose, perché il sindacato, l'Italia l'aveva portata quasi alla deriva, troppi privilegi a tutti i lavoratori, io sono contro tendenza, anche essendo dall'altra parte. Pronto? Pronto, sì, va bene, grazie, grazie Francesco da Salerno, buonasera a lei, andiamo, dove andiamo? Canio, che ci chiama da Bari? Buonasera. Sì, pronto. Prego. Buonasera, io vorrei spendere una parola a favore del nostro Presidente. No, finalmente, ecco, due interventi, perché io le avevo chiesti due interventi a favore, perché erano stati tutti contro. E allora? E non tanto e non solo perché lei le ha chiesti, sì. Anche perché, diciamo, principalmente attendersi che un Presidente del Consiglio in Parlamento dicesse delle cose non ottimistiche e che comunque non cercassero di calmare un pochino il panico che è evidente che stesse montando, che cosa ci aspettiamo? Che un Presidente si mette a dire vendete tutto perché domani scenderà del 5%? No, è domani, oggi stato però. Così. Sì, ieri questo sarebbe, parlato, stato, però. Sarebbe stato realismo, però, mi scusi. Sarebbe stato realismo, ma non è mai stato così. In nessuna parte del mondo un presidente ha in qualche maniera, anche solo indirettamente. Però mi scusi, poi la faccio proseguire, però la devo contraddire perché, no, gettare nel panico no, ha ragione lei, però mi pare che Barack Obama, il presidente americano, abbia usato toni abbastanza allarmistici, addirittura ha usato l'espressione Armageddon, cioè ha detto se non risolviamo la questione, che poi hanno risolto qualche giorno fa, anche lì complesso, nel debito, dobbiato trovare un accordo, ha detto tante volte con un appello infervorato. Costringere l'opposizione a scendere a più miti consigli, era un fatto tattico. Ma al di là di questo, il contenuto dell'idea del nostro Presidente è corretta nella misura in cui dobbiamo accettare l'idea che una via di uscita c'è. E qual è? È sicuro che una via di uscita non ci sarà finché insisteremo con l'idea delle lacrime e sangue europee, tremontiane, e praticamente di tutto l'arco degli economisti italiani e non solo italiani che continuano a dire che bisogna stringere la cinghia. E invece no, bisogna allargarla un altro po' la cinghia. L'economia non può partire. Ma come, scusi, bisogna allargarla? Non è possibile, abbiamo il debito, come facciamo ad allargare la cinghia? Mi perdono. Sì. Io sono economista, quindi so perfettamente quello che dico. Sì. L'economia non può partire se non migliorano i consumi. Quindi la ragione effettiva della crisi sta nel fatto che non si riesce a coniugare questi due aspetti. Uno, la necessità della ripresa. Due, la necessità di pagare i debiti. Questo è il problema. E questo, sì. È un questo non è un fatto politico, è un fatto tecnico. E quindi finché non si risponde a questo fatto tecnico, che è innovativo, necessariamente innovativo, se invece noi, anziché cercare qualcosa di innovativo, ma io non ho capito, noi diciamo ancora tutti questi luoghi comuni per i quali se c'è un debito dobbiamo pagare, noi dobbiamo fare, scusi, è lapalissiano, se c'è un debito che dobbiamo fare, dobbiamo pagarlo, mi pare che su questo. Certamente, ma non a scapito dei consumi, non a scapito dei redditi. Lei che economista dovrebbe saperlo, va bene, ma esatto. Non ho capito questo fatto tecnico però che lei dice c'è un fatto tecnico, ce l'hai una ricetta? Le faccio un esempio, non voglio scendere, ripeto, in aspetti magari no, troppo... per pochi. Le faccio un esempio, noi abbiamo un debito che è più alto del PIL. Quindi questo debito sicuramente non sarà pagato, almeno per il 95% non sarà pagato mai. Ciò non di meno viene denominato in titoli che hanno una scadenza. Questo fatto è un fatto tecnicamente errato. Cioè non ci ho capito nulla. Nessuno degli economisti si è posto questo problema. È evidente che il titolo del debito pubblico non può avere una scadenza alla quale non sarà pagato ma solo rinnovato. Va bene, guardi, forse ho fatto male a chiederle la ricetta perché non ci ho capito nulla, ma è colpa mia e probabilmente è colpa anche dell'ora, siamo in chiusura. Però insomma la nomino nostro economista di fiducia in pectore, magari domani sera proseguiamo una discussione che però si stava facendo a questo punto decisamente faraginosa, invece noi dobbiamo fermarci qua o no? In regia? Ma sì, direi che a questo punto possiamo fermarci qua perché non abbiamo più tempo a disposizione, ci risentiamo domani con la Zanzara, naturalmente dopo il GR delle 18, per ora buona serata a tutti. Sono figlio di un padre che aveva una grande esperienza di borsa, mi diceva della filosofia e delle ragioni che muovono le borse, che sono normalmente in contrasto con quelle che muovono l'economia. Mi ricordo una frase che diceva: le borse sono come un orologio rotto, due volte al giorno danno l'ora esatta, ma per tutto il resto l'ora non è quella vera. E io credo che questo tutti lo dovrebbero sapere. Radio 24. La passione si sente.